fra quattro passi un po' più in là. Se sono oppure sarò in fondo, chi si accorgerà? O di me saprà, di questa vita senza un nome, senza meta, senza età. Oh.